l'inizio degli anni Ottanta, e che naturalmente proporrà una analisi, una riflessione sui diritti fondamentali anche dal punto di vista di un paese attraversato da profonde disuguaglianze come il Brasile. In questa lezione introduttiva a me pare che sia utile una chiarificazione concettuale, in considerazione del fatto che siete studenti che non hanno una formazione giuridica. Che cosa intendiamo con diritti fondamentali? A questa domanda possiamo dare tre risposte diverse. Una prima risposta consiste nella definizione di diritti fondamentali, del concetto di diritti fondamentali. I diritti fondamentali sono diritti soggettivi che spettano a ciascuno di noi, ma che si distinguono rispetto ad altri diritti, come sono i diritti patrimoniali. Pensiamo al diritto di proprietà, il mio diritto di proprietà su questa giacca, su questo orologio, o il mio diritto di credito nei confronti di un debitore, perché sono diritti attribuiti a tutti e a ciascuno in egual misura. Sono, in altre parole, la base dell'uguaglianza. Noi siamo uguali nei diritti fondamentali, quali sono per esempio il diritto alla vita, che fu teorizzato dal teorico dell'assolutismo, chi di voi ha fatto filosofia al liceo, Thomas Hobbes, come il diritto la cui garanzia è la ragion d'essere del patto di convivenza, e poi i diritti di libertà. Storicamente la lista, l'elenco dei diritti fondamentali, quali sono stati teorizzati e concepiti dalla filosofia politica, dalla filosofia giuridica, si è allargato includendo i diritti politici, e cioè il diritto di voto, i diritti di libertà, la libertà di religione, la libertà di coscienza, la libertà di riunione, la libertà di associazione, e poi un'altra classe di diritti strutturalmente diversa, come sono i diritti sociali. Perché strutturalmente diversa? Perché mentre i diritti di libertà sono diritti a cui corrispondono limiti, divieti ai pubblici poteri, che non possono appunto limitare questi diritti, introducendo, supponiamo, la censura o altre forme di limitazione delle libertà fondamentali, i diritti sociali all'istruzione, alla salute, sono diritti a cui corrispondono obblighi, cioè non divieti, ma obblighi di fare. Tutti abbiamo diritto, secondo la nostra Costituzione, all'assistenza sanitaria, che è un diritto alla cui prestazione deve essere, dovrebbe essere, purtroppo qui viviamo una crisi, gratuita e obbligatoria, obbligatoria in capo allo Stato, ovviamente. In questo senso i diritti fondamentali sono la base dell'uguaglianza e designano quella che possiamo chiamare la sfera di ciò che nessuna maggioranza può decidere. Neanche l'unanimità può decidere la soppressione della vita di un uomo, la limitazione delle libertà fondamentali. Nessuna maggioranza può decidere di non soddisfare il diritto alla salute o il diritto all'istruzione. Si tratta di diritti che hanno una struttura opposta a quella dei diritti patrimoniali, il diritto di proprietà, il diritto di credito, che sono diritti che spettano a ciascuno con esclusione degli altri. E sono quindi la base della disuguaglianza giuridica. Mentre i diritti fondamentali sono per l'appunto i diritti che spettano a tutti in quanto persone, oppure nel caso dei diritti politici in quanto cittadini, e nel caso dei diritti civili a contrattare gli stessi diritti politici a votare in quanto capaci d'agire, in quanto maggiorenni. Certamente un neonato non ha il diritto di voto. Il diritto di voto, come il diritto di contrattare, si raggiunge con la maggiore età, che in Italia è stabilita a 18 anni. Vi rendete conto dell'enorme importanza di questi diritti sui quali si fonda non solo l'uguaglianza, ma la dignità delle persone, che intanto non sono sudditi, ma cittadini, in quanto titolari di questi diritti che sono limiti agli stessi poteri politici, non più sovrani, perché la sovranità cessa di esistere in presenza dei diritti fondamentali. E qui vengo al secondo significato. Quali sono i diritti fondamentali? E questa è una domanda di diritto positivo. Nell'ordinamento italiano diciamo che sono diritti fondamentali quelli che sono stabiliti dalla Costituzione italiana o anche da leggi ordinarie, per esempio il diritto a non... Una volta c'era l'articolo 18, no? Di cui avete sentito parlare, a non essere licenziati ingiustamente, questo è stabilito da una legge ordinaria, tuttavia è fondamentale perché è universale, e cioè attribuito a tutti in quanto lavoratori dipendenti. I diritti fondamentali nella Costituzione italiana sono per l'appunto quelli elencati nella prima parte, che per così dire identificano la ragion d'essere, lo statuto, la carta d'identità democratica della Repubblica italiana. Mentre nella Costituzione brasiliana sono stabiliti essenzialmente nella Costituzione del Brasile, che sotto certi aspetti è molto più avanzata della nostra. È una Costituzione, per così dire, di terza generazione, nella quale a garanzia dei diritti sociali è stata introdotta un'enorme innovazione che vincola la politica, e cioè i cosiddetti vincoli di bilancio. Sono una cosa straordinaria di cui forse parlerà Susan Martins, e cioè il Parlamento, quello, il Congresso federale, e i parlamenti degli stati e le assemblee comunali, regionali, sono obbligati a destinare una parte del loro bilancio alla salute, una parte all'istruzione, una parte alla sussistenza, e questo rappresenta un enorme progresso nel costituzionalismo. Ma badate, qual è la portata e il significato della previsione di questi diritti nelle costituzioni, come la Costituzione italiana, come la Costituzione spagnola, la Costituzione brasiliana, le costituzioni soprattutto del secondo dopoguerra? L'enorme novità rappresentata dalla previsione di questi diritti, dalla stipulazione di questi diritti in quei patti di convivenza che si chiamano costituzioni, consiste nel fatto che questi diritti risultano sottratti alla disponibilità della politica. Si è trattata di una vera invenzione e di una vera rivoluzione. I diritti fondamentali furono teorizzati già dalla filosofia giusnaturalistica e inseriti nelle prime costituzioni. Pensiamo alla dichiarazione dei diritti del 1789, quella della rivoluzione francese, e poi nelle costituzioni ottocentesche, pensiamo allo statuto albertino del 1848, tutti voi avete studiato a scuola i moti per gli statuti con i quali appunto movimenti di popolo imponevano al sovrano il contratto sociale, rifondando la legittimità del potere sull'osservanza di questi patti. E tuttavia questi patti avevano il carattere di leggi ordinarie, perché non era stata inventata una legge sulle leggi. E dunque, sia dal punto di vista della teoria del diritto, che dal punto di vista della teoria della democrazia, in forza della quale non esiste nessuna autorità sopraordinata alla maggioranza, i diritti fondamentali, per quanto stabiliti in queste carte statutarie e costituzionali, che però erano costituzioni, i giuristi dicono, flessibili, cioè avevano il carattere di leggi ordinarie, sì pure solenni, erano esposte ai giochi della maggioranza, alla volontà della maggioranza. Badate che non si tratta di una questione accademica, scolastica, giuridica. È proprio su questa natura del carattere puramente legislativo dei diritti fondamentali che si è consumato il suicidio delle democrazie in Europa, avvenuto con il fascismo e con il nazismo. Il fascismo e il nazismo sono andati al potere con mezzi legali, e con mezzi legali, cioè attraverso leggi votate da maggioranze, sia pure fittizie, ma che comunque formalmente erano rappresentate in Parlamento, hanno soppresso i diritti fondamentali, hanno soppresso la democrazia. Le leggi fascistissime del 25, in Germania le leggi del 33, hanno prodotto, del 34, hanno prodotto un vero suicidio della democrazia, in quanto la maggioranza ha soppresso i partiti, le libertà fondamentali, ha soppresso il metodo democratico stesso. Ed è sulla base di questa esperienza, di questo dramma, di questa tragedia, che tra l'altro si è conclusa attraverso una guerra mondiale, un gigantesco massacro provocato per l'appunto dalle potenze nazifasciste, Germania e purtroppo anche Italia, che però nel 1943, appunto, dopo la caduta del fascismo, attraverso la resistenza, ha riscattato, per così dire, la propria identità fino a fondare con la Costituzione repubblicana, a rifondare la democrazia. Ebbene, sulla base di questa esperienza è stata inventata la rigidità delle Costituzioni. Cosa significa rigidità delle Costituzioni? Che le Costituzioni si trovano a un livello superiore nella gerarchia delle fonti rispetto alle leggi. Sono le norme, per così dire, fondamentali che nessuna maggioranza può violare. In altre parole, è stata stipulata con la Costituzione quello che nella filosofia politica viene concepito come il contratto sociale di convivenza pacifica, che forma il presupposto della politica. Un patto sociale nel quale si conviene ciò che nessuna maggioranza può decidere e ciò che nessuna maggioranza può non decidere, di destra o di sinistra. E dunque, almeno dal punto di vista giuridico, non sono o non dovrebbero essere più possibili operazioni di, diciamo, manomissione, di soppressione, di riduzione dei diritti fondamentali. Il costituzionalismo, le costituzioni, sotto questo aspetto, rappresentano la principale protezione, questo è il titolo del nostro incontro, dei diritti fondamentali, sottratti sia alla sfera del mercato che alla sfera della politica, alla sfera di ciò che può essere deciso. Vi rendete conto quindi come nella storia dei diritti fondamentali, mentre in un primo momento viene creata la stessa nozione, strutturalmente diversa da quella tradizionale dei diritti soggettivi che ci proviene dal diritto romano, il diritto di proprietà, i diritti di credito, sono i diritti patrimoniali, sono i diritti del mercato, i diritti della disuguaglianza, la filosofia naturalistica, parliamo del 600, parliamo del 700, teorizza questa nuova figura, e cioè i diritti fondamentali, chiamati diritti naturali o diritti umani o diritti vitali, diritti cioè che sono, per così dire, o dovrebbero essere, un connotato intrinseco della persona, e sono quei diritti che hanno la struttura opposta al diritto patrimoniale in quanto sono i diritti di tutti. Ma è soltanto con le codificazioni che si passa dalla filosofia politica, e cioè dalla semplice teorizzazione di questi diritti come limiti esterni alla politica, si positivizzano e diventano quindi norme di legge. E tuttavia, di nuovo, il terzo passo è stata la costituzionalizzazione, quando si è capito che non è più sufficiente la legge, ma è necessaria la stipulazione in una norma al di sopra della legge che nessuna maggioranza può violare, è posta al riparo da operazioni di manomissioni, dalla previsione di una Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale rappresenta la garanzia, per così dire, secondaria della intangibilità dei diritti fondamentali, perché in caso di violazione di questi diritti le leggi che violano questi diritti, una legge supponiamo che introducesse la censura, una legge che limitasse le libertà fondamentali o che riducesse il diritto allo studio, il diritto all'istruzione, sarebbe una legge destinata ad essere cancellata dalla Corte Costituzionale. Come vedete, è un mutamento di paradigma sia del diritto che della democrazia, perché grazie alle Costituzioni, per questo le Costituzioni sono così fondamentali, hanno cambiato la natura della democrazia, che non consiste più soltanto nel cosiddetto autogoverno, nel governo del popolo, della maggioranza, attraverso la mediazione rappresentativa, ma consiste anche in ciò che la maggioranza non può decidere. Alla dimensione puramente, per così dire, formale, politica, rappresentativa, tradizionale della democrazia politica, che consiste nel potere del popolo, come dice l'etimologia di questa stessa parola, crazia del demos, si aggiunge un'ulteriore fonte di legittimazione, che ha a che fare non con le forme della produzione giuridica, e cioè il chi e il come delle decisioni, il popolo attraverso i suoi rappresentanti, ma anche il contenuto. La democrazia oggi non è più soltanto democrazia politica, la democrazia costituzionale è un sistema di regole che non disciplina soltanto le forme legittime della produzione legislativa, della produzione normativa, e cioè il potere del popolo e quindi attraverso i rappresentanti delle maggioranze parlamentari, ma vincola questo sistema di limiti e di vincoli anche sul piano contenutistico, sul piano sostanziale. Insisto su questo punto perché la maggior parte delle teorie della democrazia, penso a Kelsen, penso a Dole, perfino a Norberto Bobbio, che è stato il mio maestro, hanno sempre concepito la democrazia come un sistema di regole formali, di regole del gioco, sul chi e sul come, sulla competenza e sulle procedure. Certo, questa è una condizione necessaria per parlare di democrazia, ma la grande novità, trascurata se non ignorata da molti filosofi della politica, è precisamente il fatto che le Costituzioni hanno vincolato il sistema politico, ma anche il mercato, almeno sul piano normativo, non solo sul piano delle forme, ma anche sul piano dei contenuti. Nessuna maggioranza può decidere che una persona sia privata della vita o della libertà personale, o che non sia assicurata la salute, non sia assicurata l'istruzione. Le Costituzioni, per così dire, hanno posto fine alla sovranità quale potestas legibus assoluta. Cosa significa sovranità? Sovranità, secondo una classica definizione, significa potestà sciolta da qualsiasi legame e vincolo. La fonte, diciamo, del diritto, a sua volta non subordinata a nessun'altra fonte, e anche sul piano teorico è stato difficile superare questa idea. Cosa mettiamo al di sopra della sovranità? Le Costituzioni hanno posto fine all'idea di poteri costituiti di carattere assoluto. Neanche il Parlamento, neanche il Presidente eletto, nessuna assemblea rappresentativa, nessun potere costituito in presenza di Costituzioni rigide è sovrano. Perché tutti i poteri sono sottoposti alla legge, i giudici, gli amministratori alla legge, ma anche il Parlamento, anche il legislatore, anche il governo, il Presidente della Repubblica, i supremi vertici istituzionali sono sottoposti alla Costituzione, quanto alle forme e quanto ai contenuti del loro esercizio. Per questo, è una tesi che io sostengo e che comunque propongo sempre agli studenti, l'espressione sovranità è in contraddizione con le Costituzioni e merita di essere ridefinita, perché nelle nostre Costituzioni si dice che la sovranità appartiene al popolo, probabilmente anche in quella brasiliana. Ebbene, che cosa vuol dire che appartiene al popolo? Vuol dire che appartiene al popolo e a nessun altro, e quindi è una garanzia negativa. Nessun potere costituito, Nessuna assemblea rappresentativa, nessun Parlamento, nessun Presidente può arrogarsi la sovranità, che appartiene al popolo e a nessun altro. Ma siccome il popolo non esiste come macro soggetto, ma è l'insieme di milioni di persone, cioè di tutti noi, sovranità in positivo significa la somma, nient'altro che la somma di quei frammenti di sovranità che sono i diritti fondamentali di tutti e di ciascuno e che collocano ciascuno di noi al di sopra dei poteri costituiti. In questo senso sovranità popolare significa collocazione dei titolari dei diritti fondamentali, delle persone in corno d'ossa, come titolari di frammenti di sovranità rispetto a quello che diventa, secondo la concezione in fondo giusnaturalistica, lo Stato, uno strumento di tutela e di attuazione di questo progetto che è il progetto costituzionale. Ebbene, questo progetto è un progetto normativo. Dobbiamo essere consapevoli che disegna un'utopia positiva, che comporta un grado maggiore o minore di attuazione e di effettività. Non viviamo in mondi deonticamente perfetti. L'uguaglianza, le libertà, avremo sempre un grado maggiore o minore di attuazione. E peraltro questa attuazione è un'attuazione dovuta da parte della sfera pubblica, da parte dei pubblici poteri, da parte della politica, che richiede l'introduzione di leggi di attuazione, e cioè di garanzie. Vedete, torniamo alla differenza fra diritti patrimoniali e diritti fondamentali. I diritti patrimoniali sono i diritti spettanti a ciascuno, con esclusione degli altri, il diritto di credito, il diritto di proprietà. Per questi diritti, come sostiene da sempre la dottrina civilistica, ripresa anche da Kelsen, questi diritti esistono simultaneamente agli obblighi o ai divieti corrispondenti. Un diritto di credito esiste simultaneamente al debito. Io intanto sono creditore di una persona in quanto ne esiste un'altra che è debitore della stessa prestazione. E lo stesso vale per il diritto di proprietà, che nasce insieme al divieto, erga omnes, di tutti, di limitare, ledere, disturbare l'esercizio di questo diritto. Perché sono diritti che sono il prodotto di attività negoziali predisposti dalla legge insieme agli obblighi e divieti corrispondenti. Viceversa, i diritti fondamentali sono stabiliti direttamente dalle norme. Tutti hanno diritto alla vita, tutti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, tutti hanno diritto di associarsi e riunirsi pacificamente senza armi, tutti hanno diritto all'assistenza sanitaria, diritto all'istruzione, alla scuola per almeno 8 anni, come dice la nostra Costituzione. Ebbene, questi diritti dunque richiedono leggi di attuazione, richiedono una politica obbligata ad attuarli. Senza leggi di attuazione, il diritto alla salute rimane sulla carta. È necessario appunto l'introduzione del servizio sanitario universale, obbligatorio in capo allo Stato, in capo alla sfera pubblica, gratuito. Lo stesso vale per il diritto all'istruzione, ma lo stesso vale perfino per il diritto alla vita. Perché in forza di un principio fondamentale del diritto penale, nessuno può essere punito se non in presenza di una legge che preveda un fatto come reato, neppure l'omicidio senza una legge di attuazione del diritto alla vita sarebbe punibile. E dunque i diritti fondamentali certamente hanno anche un'applicazione immediata. E tuttavia, soprattutto i diritti sociali richiedono leggi di attuazione che introducano le relative garanzie, cioè gli obblighi e i diritti corrispondenti, e sono le garanzie primarie, e anche le istituzioni giurisdizionali in grado di sanzionare, annullando le leggi invalide o comunque riconoscendo il vizio e l'inadempimento da parte dello Stato, e quindi la Corte Costituzionale, e quindi le giurisdizioni in grado di assicurare effettività a questi diritti. E allora, come vedete, non basta formulare la Costituzione, non basta una Costituzione per realizzare la democrazia, ovviamente, non consiste in una bacchetta magica l'atto costituente, è un progetto normativo, un progetto politico, un progetto giuridico, un progetto vincolante che impone alla politica, che impone alla dimensione politica della democrazia la sua attuazione e il suo rispetto. E la costruzione della democrazia è un'opera molto complessa e difficile che consiste nella costruzione, nella difesa delle funzioni e delle istituzioni di garanzia, che non cascano mai dal cielo, ma sono sempre il prodotto di grandi lotte e rivoluzioni, il cui primo effetto è la stipulazione di questi diritti, ma che sono diritti in grado di essere effettivi solo se accompagnati da leggi di attuazione. Non basta stabilire il diritto alla salute, occorre introdurre il servizio sanitario obbligatorio e gratuito, cosa che è stata fatta in Italia, ma che oggi viene in parte disfatta con Italia la sanità, che avvengono perché c'è anche un fenomeno di perdita di memoria e di analfabetismo costituzionale, in forza del quale si considera lecito, e c'è purtroppo una Corte Costituzionale su questo terreno assai poco severa, si considera lecito la possibilità di portare tagli, di introdurre ticket e di rendere per l'appunto oneroso e monetizzato la garanzia del diritto alla salute. Così come in materia di lavoro, se dovessimo fare appunto la storia del nostro paese, sarebbe la storia di una progressiva attuazione del progetto costituzionale, soprattutto nei primi 30 anni della Repubblica. Sono state introdotte istituzioni di garanzia in materia di sanità, in materia di salute, in materia di istruzione. Sono state soppresse molte leggi fasciste, sono state riformate, è stato riformato il diritto di famiglia, sono stati introdotti appunto e garantiti i principi di uguaglianza in materia di rapporti coniugali. È stato costruito il diritto del lavoro attraverso una serie di limiti imposti a quei diritti potere che sono i diritti del mercato, i diritti civili. E viceversa, in questi ultimi 20-30 anni abbiamo assistito ad una progressiva riduzione e in qualche caso, mi riferisco al lavoro e rapporti di lavoro, a una vera e propria demolizione dei diritti fondamentali e delle loro garanzie. A riprova del fatto che questi diritti intanto appunto sono effettivi in quanto sono sorretti dal senso comune generalizzato e dalle lotte, le battaglie sociali. Ci sono, si può dire, tante generazioni di diritti, secondo una espressione di Norberto Bobbio, corrispondenti ad altrettante generazioni rivoluzionarie. I diritti di libertà furono rivendicati e ottenuti dalla borghesia nel secolo XVIII, nelle prime costituzioni. Poi i diritti politici, che però sono stati affermati come diritti di tutti, con il suffragio universale esteso anche alle donne, in Italia soltanto nel 1946, dopo il fascismo, e poi le libertà fondamentali, e poi i diritti sociali, I diritti sociali, che sono i diritti di ultima generazione e che oggi l'ideologia liberista sta di fatto aggredendo e in molti paesi, a cominciare dall'Italia, dissolvendo. Badate, i diritti sociali sono diritti vitali che si sono affermati nel nostro paese, si sono affermati a livello globale, a livello mondiale, proprio perché sopravvivere è sempre meno un fatto naturale, è sempre più un fatto sociale. Ancora nel 600, penso a Locke, che scrisse il secondo trattato del governo umano, scriveva che la sopravvivenza è un fenomeno naturale, la vita va garantita contro le lesioni, contro l'omicidio, questo è il diritto alla vita, ma la sopravvivenza è affidata alla libera iniziativa della persona, alla volontà di lavorare. E scriveva Locke, sempre è possibile, sempre sarà possibile ritornare nelle campagne, qualora una fabbrica chiuda, oppure emigrare nelle terre incolte d'America, così scriveva Locke, perché il diritto di emigrare era stato teorizzato, badate, era stato teorizzato forse ancora prima del diritto alla vita, nel 500, da un grande internazionalista, Francisco de Vitoria, come un diritto naturale, perché si trattava di legittimare la conquista, l'occupazione del nuovo mondo, si trattava di legittimare la colonizzazione. E allora fu inventato, ci sono non luminose origini alla origine dei diritti fondamentali, ancora prima del diritto alla vita, teorizzato da Hobbes, 100 anni prima, Francisco de Vitoria teorizzò il diritto di emigrare per legittimare la conquista spagnola del nuovo mondo. Contro le tesi molto, diciamo, elementari e assolutamente di comodo che erano state sostenute, le bolle papali con cui era stato diviso il mondo, parte affidata agli spagnoli e in parte ai portoghesi. No, Francisco de Vitoria contesta questi titoli, oppure l'occupazione di cose di nessuno, come se il continente americano fosse appunto una res nullius e quindi esposta all'occupazione di chiunque vi arrivava per primo, con l'idea che gli indigeni non fossero esseri umani o fossero comunque persone che potevano essere trattati come cose. Ebbene, Francisco de Vitoria teorizzò viceversa il carattere di persone, titolari dei diritti degli indigeni, ma anche dei popoli dell'America, e al tempo stesso un diritto universale, il diritto di emigrare. Naturalmente allora erano gli spagnoli, erano gli europei, erano gli occidentali che andavano nel nuovo mondo a conquistare, ad occupare. Per 5 secoli il diritto di emigrare è stato alla base delle colonizzazioni e delle politiche di rapina dell'Occidente nei confronti del resto del mondo. Oggi i flussi migratori si sono invertiti. Non siamo più noi che andiamo a colonizzare, a occupare, a conquistare il resto del mondo, ma il resto del mondo, impoverito e depredato delle sue risorse da 5 secoli di colonizzazione, che provoca quelle sacche di miseria, di povertà, che costringono milioni e milioni di persone a venire nei nostri paradisi democratici e naturalmente a cercare di arrivare nei nostri paradisi, perché viceversa affogano prima di arrivare. Negli ultimi 20 anni sono circa 25-30 mila le persone affogate nel Mediterraneo nel tentativo di entrare, perché quel diritto di emigrare, che era stato teorizzato alle origini della civiltà giuridica moderna, è diventato delitto. La norma più vergognosa della storia della Repubblica Italiana è stata l'introduzione del delitto di accesso clandestino. a distanza di 70 anni abbiamo reintrodotto delle leggi razziali. Nel 1938 c'erano state le leggi razziali del fascismo contro gli ebrei, è stato reintrodotto come reato un reato di status, cioè la condizione di illegittimo, in contraddizione col principio di uguaglianza, col principio di dignità della persona, col principio stesso del diritto di emigrare, che è stato per 5 secoli una norma fondamentale del diritto internazionale e che si trova anche nella nostra Costituzione come diritto nostro di emigrare, non come diritto diciamo riconosciuto agli altri. Viviamo una contraddizione che tra l'altro viene completamente ignorata dagli attuali populismi razzisti che stanno, diciamo, invadendo l'Europa, no? In Italia la nostra Lega, i lepenisti in Francia, che considerano l'immigrazione come un'invasione indebita. E dunque abbiamo costruito leggi di esclusione che rendono di fatto impossibile l'immigrazione non clandestina. Occorrerebbe avere un rapporto di lavoro ancor prima di partire. Stiamo vivendo, in altre parole, una pesante contraddizione tra il diritto vigente e le nostre costituzioni. E questa contraddizione è legata alla scomparsa dal senso comune, dall'orizzonte comune, dal senso civico e soprattutto dall'orizzonte della politica del carattere vincolante delle costituzioni. Oggi noi viviamo una crisi della democrazia legata al disimpegno civile della maggior parte delle persone, che è il riflesso evidentemente della pessima politica che ci governa e che si manifesta in una rimozione del costituzionalismo, ancor prima che della Costituzione, dall'orizzonte della politica. Ebbene, le Costituzioni sono state inventate proprio per realizzare, e vengo qui all'ultima questione, quella del fondamento assiologico di questi diritti, la convivenza pacifica. La convivenza pacifica suppone l'uguale titolarità di diritti fondamentali. I quali diritti sono diritti all'uguale trattamento delle differenze. Se prendete l'articolo 3 della Costituzione italiana, è emblematico di questo duplice senso di uguaglianza. Tutti siamo uguali senza differenza, senza distinzione di sesso, di lingua, di opinione religiosa, di opinioni politiche. In questo senso l'uguaglianza altro non è che l'uguale valore associato a tutte le nostre differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona uguale a tutti gli altri. In questo senso l'uguaglianza è una garanzia delle differenze e dell'uguale valore, l'uguale dignità attribuita a tutte le differenti identità. E poi c'è un altro senso di uguaglianza, quello dell'articolo 3 capoverso, l'uguaglianza sostanziale, l'uguaglianza materiale. Nei diritti sociali, nei diritti vitali, nei diritti ai minimi vitali, che oggi vengono aggrediti, lo dicevo prima, dal mercato, dall'ideologia liberista, come se fossero un lusso. Credo che questo sia un luogo comune che deve essere sfatato. Certamente i diritti sociali costano. Per diritti sociali intendiamo i diritti a prestazione positiva, che richiedono non un passo indietro dello Stato, come i diritti di libertà, che sono immunità, che impongono un divieto allo Stato di intervenire, di limitare per l'appunto, ma impongono un passo avanti, e cioè assistenza sanitaria, istruzione. Ebbene, questi diritti costano, evidentemente costa la salute, costano le pensioni, costa l'istruzione, ma costa molto di più la mancata garanzia di questi diritti. La differente ricchezza dei nostri paesi, pensiamo all'Europa, rispetto al resto del mondo, dipende certamente anche dal fatto che in passato abbiamo depredato gran parte del mondo restante, ma dipende anche dal fatto che grazie a lotte sociali, in particolare operaie, abbiamo costruito lo Stato sociale e abbiamo garantito questi diritti vitali a tutti. I paesi poveri sono quei paesi nei quali questi diritti non vengono garantiti e va completamente capovolto il luogo comune secondo cui la garanzia di questi diritti è un lusso che può essere sorretto soltanto in presenza di grandi ricchezze o di paesi ricchi. Perché è esattamente il contrario, in assenza della garanzia dei diritti sociali non c'è produttività individuale. Quando le persone muoiono di fame, si ammalano e non sono curate o sono prive di istruzioni, non esiste neanche produttività individuale. Il grado di produttività, anche dal punto di vista economico, questi diritti sono evidentemente fine a se stessi, ma anche sul piano banalmente economico, la produttività di un paese è assicurata soltanto se le persone, appunto, sono garantite in questi minimi vitali, la sopravvivenza, la salute, l'istruzione. Basta confrontare l'Italia repubblicana dagli anni 60 in poi all'Italia ottocentesca, all'Italia del primo Novecento. Tutti i nostri paesi, anche l'Inghilterra, sono sicuramente più ricchi rispetto al loro passato. Quando l'analfabetismo riguardava il 90% delle persone, 90-95, quando le persone morivano di malattie non curate oppure di fame, e sono diventati paesi ricchi solo in quanto sono garantiti i diritti sociali alla sussistenza, che dunque rappresentano l'investimento primario, l'investimento produttivo primario, molto più importante di qualsiasi altro investimento. Va assolutamente capovolto quell'idea liberista secondo cui appunto i diritti sociali costano e possono essere sostenuti, possono essere garantiti soltanto da stati ricchi. Ma abbiamo anche la prova, un paese come il Brasile, molti paesi dell'America Latina, ma il Brasile in particolare, sta diventando un paese, non diciamo ricco, ma comunque con un aumento del PIL, questo è sempre, come al solito, il parametro, che cresce appunto del 5, del 6% all'anno, proprio perché dopo le dittature sono stati garantiti, sia pure in maniera assolutamente inadeguata e imperfetta, i diritti sociali. C'è stato un minimo di redistribuzione della ricchezza, un minimo di garanzie dell'uguaglianza. E il nostro stesso paese, che è stato il paese nei primi 30 anni della Repubblica che aveva la crescita più alta d'Europa, in questi ultimi 20 anni, con le politiche di aggressione ai diritti sociali, è diventato il paese con il più alto indice di recessione. E c'è un ultimo equivoco che vorrei sottolineare. Tra i diritti fondamentali esistono evidentemente anche i diritti civili del mercato, che sono diritti di tutti. Il diritto di negoziare, il diritto di contrattare, il diritto di disporre del proprio denaro come si preferisce. Ma questi diritti, al pari dei diritti politici, pur essendo fondamentali, consistono in poteri, il cui esercizio, questa è una questione di teoria del diritto, ma credo abbastanza banale, è un livello normativo più basso rispetto al livello della legge e della Costituzione. E quindi l'esercizio di questi diritti civili del mercato, non può derogare agli altri diritti fondamentali e perfino alla legge. Qui la tradizione liberale, una tradizione ideologica che continua a pesare sul nostro presente, non soltanto perché, come dicevo, i diritti sociali vengono considerati un lusso, ma anche perché i diritti del mercato vengono considerati libertà fondamentali, allo stesso tipo della libertà personale, dell'immunità da tortura, della libertà di coscienza, della libertà di stampa. No, questi diritti sono fondamentali, ma sono diritti potere, così come diritti politici, perché il loro esercizio consiste in atti produttivi di effetti, pensiamo ai rapporti di lavoro. E uno dei lasciti della tradizione liberale e liberista è l'aver concepito, come dice la stessa parola, stato di diritto. Che significa stato di diritto? Che lo Stato deve essere sottoposto al diritto. Come se l'unico luogo del potere fosse lo Stato e non anche il mercato. Invece dobbiamo riconoscere che anche il mercato, soprattutto nell'odierna età della globalizzazione, quando il mercato è globale e i poteri economici sono poteri sovrastatali, che in assenza di una sfera pubblica alla loro altezza non hanno limiti di nessun genere e possono quindi sottomettere le stesse politiche statali, come abbiamo visto con la Grecia, con l'Italia, al loro arbitrio e ai loro interessi, è soltanto la costruzione di una sfera pubblica mondiale, questo è il nuovo passo che deve essere compiuto, di una sfera pubblica all'altezza dei poteri altrimenti selvaggi, sia del mercato che della politica, che deve essere costruita. Come vedete è ancora completamente, diciamo, inattuato il progetto costituzionale, non soltanto per quel che riguarda le garanzie all'interno degli ordinamenti, ma anche, direi soprattutto, per quel che riguarda le garanzie dei diritti e ovviamente della pace, le due cose sono assolutamente connesse, a livello sovranazionale. Perché noi abbiamo una quantità enorme di dichiarazioni, di carte, di convenzioni, di patti sui diritti fondamentali, ma mancano leggi di attuazione, mancano le istituzioni di garanzia. Sì, abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la FAO, che non hanno però poteri. E il vero problema e la vera sfida per il futuro è la costruzione di istituzioni di garanzia sovranazionali, anche perché molti problemi globali possono essere affrontati e risolti soltanto a livello globale, a cominciare dalla tutela dell'ambiente, dalla fame nel mondo, da gran parte, diciamo, la pace, attraverso il disarmo. Noi ancora siamo in uno stato di natura, visto che il passaggio allo stato civile avviene con il disarmo e con il monopolio in capo, in questo caso all'ONU, con il monopolio giuridico della forza. Come vedete, il percorso è interamente da compiere, o in gran parte da compiere. Voi siete molto giovani, avete davanti appunto molti decenni, un secolo davanti, e io credo che di fronte alle catastrofi che in assenza di costituzioni, di limiti, di vincoli ai poteri, di diritti fondamentali si profilano, la catastrofe ecologica, quella umanitaria, quella nucleare, quella l'unica risposta è quella politica attraverso il diritto e attraverso i diritti. È una costruzione complessa, difficile, non possiamo sapere se questa costruzione ci sarà, dobbiamo semplicemente essere consapevoli di fronte alle accuse di irrealismo, che l'unico irrealismo è quello di pensare che il mondo possa sopravvivere senza interventi in grado di garantire pace e diritti fondamentali, che sono garanzie che sono affidate al diritto, ma innanzitutto alla lotta per i diritti di tutti e di ciascuno di noi. Bene, adesso la parola a Susan Martins, professore emerito, sociologo illustre di San Paolo. Grazie. È un onore essere qui con voi. Vado a parlare in portoghese e avrà la traduzione. Ritrovare gli amici della Fondazione Lelio Basso, ritrovare il professore Luigi Ferraioli dopo tanti anni. O Brasil é um país, como outros países do terceiro mundo e da América Latina, diferente dos países de referência na produção do conhecimento que rege o mundo hoje, as leis, os códigos, a própria concepção de direitos humanos. Porque há uma historicidade própria e limitante na realidade do país. O Brasil é o único país da América, das Américas, que não se tornou independente em consequência de uma revolução política. Foi o próprio herdeiro da coroa portuguesa, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, que proclamou a independência do Brasil. Portanto, foi o próprio Estado que criou o Estado independente e foi o Estado que teve que se empenhar na formação da sociedade civil, levando em conta que a sociedade brasileira, a sociedade colonial, e a coisa perdurou ainda até o fim do século XIX, era uma sociedade economicamente organizada com base no trabalho escravo, onde não existe relação de trabalho que não produz a figura do cidadão, nem viabiliza a figura do cidadão. A primeira Constituição brasileira não foi votada por uma Assembleia Constituinte, foi outorgada pelo imperador em nome da Santíssima Trindade. Não sei se a Santíssima Trindade foi consultada, mas, de qualquer maneira, foi em nome dela que o Brasil teve a sua primeira Constituição. As Constituições posteriores, com exceção das duas últimas, foram Constituições geradas no pressuposto de que uma grande parte da população brasileira não estava preparada para o exercício da cidadania, não só o direito do voto, mas o direito de opinião a respeito dos direitos sociais e dos direitos políticos. A primeira Constituição republicana, que foi votada em nome do povo, foi votada em nome dos grandes proprietários de terra. Eles eram o povo. E foram excluídos do direito de voto e, portanto, do direito de se expressar politicamente, os analfabetos, por um motivo. A maioria dos analfabetos era uma maioria procedente da escravidão, que foi abolida apenas um ano antes da proclamação da República. Isso porque os republicanos imaginavam que seria muito difícil ter um parlamento em que os deputados e os senadores fossem pessoas originadas diretamente do trabalho escravo, supondo que o escravo não é uma pessoa dotada de vontade própria. Não só os mendigos foram excluídos, as mulheres também foram excluídas, na suposição de que, sendo a mulher dependente do marido, não tem vontade própria. Foram excluídos os membros das ordens religiosas, porque, tendo feito o voto de obediência e tendo que obedecer a alguém, não tinham condições de obedecer à própria consciência. E, finalmente, os praças de pré, isto é, os soldados recrutados para as duas forças armadas, a Marinha e o Exército, porque estavam também sujeitos à obediência a seus comandantes. Uma parcela importante da população brasileira ficou fora do direito de voto e fora do direito de se expressar politicamente. A primeira Constituição a reconhecer um universal direito político foi a de 1988, resultante da Constituinte que decorreu do fim da ditadura militar que houve no Brasil entre 1964 e 1985. A questão, porém, é mais complicada do que parece. Não basta a Constituição reconhecer que todos são iguais perante a lei, que as pessoas, de fato, vão se tornar iguais perante a lei. O Brasil está vivendo um momento bastante complicado, uma crise política bastante complicada, decorrente justamente desse reconhecimento de um direito universal a ser cidadão, que é o ressurgimento do populismo como uma forma de manipulação política de massa das populações desvalidas, porque são iguais perante a lei, mas não são economicamente iguais. Nós temos no Brasil um programa que se chama Bolsa Família, que é um subsídio que o governo concede às pessoas, que torna, já se sabe, as pessoas dependentes politicamente dos agentes de concessão da tal bolsa, que é uma bolsa minúscula, é quase nada, que ajuda muito a complementar, digamos, as despesas domésticas, mas que, de qualquer modo, cria um vínculo de dependência que atenua, digamos, os direitos políticos supostamente existentes a partir da proclamação constitucional. Eu vou lhes falar, com base na minha experiência pessoal de pesquisador, de sociólogo, que trabalhou longos anos na região amazônica, fazendo pesquisas sobre populações que estavam chegando ao cenário nacional muito recentemente e populações que estavam se tornando, muito recentemente, novos sujeitos do processo político e do processo histórico brasileiro. Durante muitos anos, eu fiz pesquisa sobre a expansão da fronteira na região amazônica. A Amazônia foi a última grande fronteira do mundo, a última região desconhecida a ser conquistada. E foi mal conquistada, foi conquistada da pior maneira possível. Darcy Ribeiro, um grande antropólogo brasileiro, dizia que as populações indígenas contatadas nesse processo de expansão vão se encontrar com os piores representantes da espécie humana, violentos, destrutivos, predatórios. E é isso que tem acontecido. São pessoas que estão interessadas apenas em se apossar da terra, os grandes proprietários de terra, não raro grandes empresas internacionais que querem extrair da terra lucros fáceis, com um trabalho frequentemente escravo, que ainda existe, embora não seja legal, e, portanto, com base numa ampla degradação da condição humana. Eu vou lhes falar, portanto, sobre a minha experiência de ser um pesquisador, personagem desse processo, claro que um personagem irrelevante, mas que estava lá vendo coisas, presenciando coisas e conversando com pessoas. E o trabalho de pesquisa numa região assim é um trabalho extremamente complicado, porque não é como chegar numa cidade e fazer um censo com perguntas para as pessoas, quando você nasceu, quantas pessoas vivem na sua casa, etc., etc. Aliás, esse é o lado, digamos, que as populações nativas consideram ridículo nos brancos. Eu tive uma colega na universidade, ela já faleceu precocemente, Araci, uma grande antropóloga que trabalhou durante muitos anos com os índios Xavante no centro do Brasil, e que eram índios de contato relativamente recente. Ela falava Xavante. E, na relação de amizade que ela estabeleceu, os índios, quando iam a São Paulo para tratamento médico no hospital da Universidade Federal, que tinha um convênio com a Fundação Nacional do Índio, ficavam na casa da Araci. E ela ficou muito espantada quando o primeiro grupo chegou. Ela vivia com a mãe, morava com a mãe. E ela apresentou a mãe para eles. Olha, essa é a minha mãe, em Xavante. Aí eles começam, um por um, perguntar para a mãe da Araci: como é o seu nome? Idade? Nasceu onde? Quantos filhos tem? E foram fazendo, cada um fazendo um inquérito censitário, porque achavam que os brancos se apresentam às outras pessoas fazendo isso, fazendo um inquérito para o censo demográfico. Essas populações indígenas contatadas nessa época eram populações não conhecidas das populações brancas e, ao mesmo tempo, não conheciam o branco, a não ser num caso em que havia um mito com uma referência que sugeria algum contato no passado. Os índios Wanyampi, no norte do Brasil, quando perceberam que os brancos estavam chegando, se prepararam para o contato. Eles também estavam preocupados com esses seres estranhíssimos que estavam chegando, ao mesmo tempo que os brancos estavam se preparando para o contato, porém, através da Fundação Nacional do Índio e, portanto, de especialistas no contato. O contato sempre é muito lento, é um contato de vista, se vê, se deixa presentes, a coisa pode demorar meses e meses, até que, finalmente, eles se viram frente a frente. Uma das dúvidas dos agentes da FUNAI era a que grupo pertencia, que grupo linguístico pertencia essa tribo e que língua esse grupo falaria. Quando se viram frente a frente, o cacique, o chefe, o Oyampi, muito trêmulo e assustado, se dirige aos brancos e pergunta: "Do you speak English?" Ou seja, o índio que eles achavam que não conheciam, cuja língua não conheciam, já falava inglês. A experiência do Chavante foi também muito reveladora das dificuldades do contato. Os índios Chavante foram contatados por um grupo de pessoas que estavam gripadas e que transmitiram a gripe a eles. Os grupos indígenas são muito vulneráveis às doenças de branco e a gripe é uma das doenças mais devastadoras. Em geral, nesse período, no período que eu estive fazendo a pesquisa, dos grupos contatados, mais de 50% morreram em consequência dessas doenças, particularmente a gripe. Feito o contato com os Chavantes, eles foram aldeados, colocados numa reserva, a terra deles foi tomada, foi aberta uma grande fazenda naquela área, fazenda de criação de gado. E os índios tiveram que reelaborar o seu sistema simbólico e o seu sistema de classificação das pessoas. Em geral, os grupos indígenas, esses grupos ditos primitivos, têm um sistema classificatório muito elaborado, muito complicado. Vocês podem ver isso nos livros do Claude Lévi-Strauss, foi um grande sociólogo, foi professor na minha universidade e trabalhou com populações indígenas no Brasil. No geral, uma aldeia tem um formato circular e é dividida em duas metades. Cada metade tem um nome. Pode ser o nome de um animal, pode ser o nome de uma planta. A planta A, diferente da planta B, o animal A, diferente do animal B. As pessoas que nascem numa metade têm que se casar necessariamente com pessoas da outra metade. Elas não podem se casar na própria metade, porque seria um casamento incestuoso. Ao mesmo tempo, existem critérios de ascendência e descendência baseados diferentemente, em diferentes tribos, no pai ou na mãe, o que introduz novas interdições nas relações de casamento entre essas pessoas. Com o contato tido com os brancos, a questão era como classificar os brancos. O que é que os brancos são? Os brancos são uma árvore? Os brancos são um animal? O que é que eles são? A humanidade das pessoas não é reconhecida pelo fato de elas terem duas pernas e caminharem como se humanas fossem. Para eles, o problema é mais complicado. É um problema de saber o que essas pessoas efetivamente são, se é que são pessoas. Depois de muito discutir, muito refletir, os índios Chavante decidiram classificar os brancos na categoria de onça. Isto é, os brancos não são humanos. Os brancos são como o jaguar, que é o animal mais predatório que há, mais violento que há. É um dos raros animais que mata não para comer, mas para destruir o outro animal, eventualmente para comer. quando se fala, pensar na Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, todos os homens nascem iguais, não se leva em conta este fato de que diferentes povos, por diferentes razões históricas, culturais, etc., não nascem iguais. Na prática de quem faz pesquisa no campo, com populações assim, numa sociedade, digamos, que é relativamente atrasada historicamente, nós estamos em face de pessoas que não são, não consideram os outros necessariamente humanos. Não só não consideram os brancos, por razões como essa dos chavantes, mas também outros grupos indígenas. Os nomes que os índios dão uns aos outros, a umas tribos, às outras, são nomes que justamente revelam a negação do reconhecimento da condição humana a essas pessoas. Há um grupo em Rondônia, foi uma área em que eu fiz pesquisa, quase na fronteira com a Bolívia, que é o grupo dos Suruí. Na verdade, o nome deles não é Suruí, foi uma outra tribo que lhes deu esse nome. O nome é Paíter, que na língua deles quer dizer simplesmente nós. Nós somos nós. Isto é, nós é que somos os humanos, os outros não são. A história do Suruí tem um episódio que ocorreu mais ou menos na época em que eu estava fazendo pesquisa por lá, que foi a tragédia de um índio Suruí chamado Oreia. O contato do Suruí de Rondônia era relativamente recente, e Oreia era um jovem de 16 anos, que rapidamente aprendeu a língua portuguesa, a língua deles é de origem tupi, é do tronco tupi, e passou a ser e foi incorporado pela equipe da Fundação Nacional do Índio como índio para ser intermediário no contato com os outros índios da tribo e da região que eventualmente falassem aquela língua, uma língua parecida. Com essa história, Oreia teve contato com os colonos que estavam chegando à região amazônica. É a época em que a mata está sendo destruída, uma mata secular, e colonos estão chegando do sul do Brasil, do estado do Paraná e de Santa Catarina, e estão chegando também do estado do Espírito Santo. Oreia conhece uma moça chamada Arminda, de uma família de descendentes de italianos vindos do estado do Espírito Santo, com a mesma idade. E eles se apaixonam. Só que a família de Arminda, como acontecia com outros colonos na área, não reconheciam a humanidade do índio. Eles dizem sempre, índio não é gente. E, portanto, não aceitaram de maneira nenhuma que a filha eventualmente fosse viver com Oreia. Sem contar que, seguindo um certo costume tradicional que ainda existe, a família de Arminda já a havia prometido para um noivo lá na região do Espírito Santo, no outro extremo do Brasil. Em consequência, Oreia rapta Arminda e a leva para a aldeia. E a toma como mulher, com o consentimento de Arminda. A família da moça organiza uma expedição, ataca a aldeia, rapta a moça, a leva embora e a manda de volta para o estado de origem, para o noivo dela, o noivo que a família tinha escolhido. O grupo de idade de Oreia, quer dizer, os índios da sua tribo da mesma idade, que formam um grupo de idade para todas as atividades de socialização, etc., resolve atacar a família, a comunidade branca da qual fazia parte a família de Arminda, na tentativa de trazê-la de volta. Oreia havia entrado num processo depressivo, ficava deitado na rede, imóvel, calado, sem fazer nada. Ele tinha decidido morrer. E os amigos dele decidem trazer a moça de volta para ressuscitar esse Oreia que estava morrendo de amor. A moça já havia ido embora. O grupo, então, ataca os brancos, ataca a família da Arminda, mata várias pessoas. É uma luta sangrenta. Nessa época, estava fazendo pesquisa na região a professora Betty Mindlin, uma grande antropóloga brasileira, e pesquisa justamente na aldeia Suruí. Ela estava na aldeia quando os índios voltaram do ataque completamente cobertos de sangue. Não quiseram entrar nas casas, nas ocas, porque eles estavam contaminados pela morte e tinham que passar por um processo de purificação. Como consequência, os brancos e a família de Arminda organizam um ataque contra os índios. Vários são mortos. Oreia é apanhado na rede em que ele estava imobilizado praticamente. Ele é morto, ele é esquartejado e é distribuído pelo mato, jogado no mato, para ser comido pelos animais, porque ele não era humano. A questão, portanto, da humanidade que existe nesse contato entre humanidades que se desencontram é um dos grandes problemas presentes nesse ciclo histórico da expansão territorial da sociedade branca no Brasil e, portanto, da história das ciências sociais que acompanharam esse processo. Não só em relação às populações indígenas as coisas se revelaram complicadas, os próprios brancos, os empresários, as grandes empresas que entraram na Amazônia, adotaram o regime do trabalho escravo como uma forma de abrir as novas fazendas e recriaram a chamada escravidão por dívida, o regime de peonagem. Nos anos 70, em meados dos anos 70, o Brasil teve, concentrados especialmente na região amazônica, de 200 mil a 400 mil escravos. E aqui se trata do escravo coisa. Se trata de uma outra negação da humanidade da pessoa, um desconhecimento da condição humana e dos direitos humanos da pessoa, porque se trata da conversão da pessoa em mercadoria. É nesse sentido que as advertências de Darcy Ribeiro sobre o pior tipo de gente que a sociedade branca põe em contato com as populações nativas na região de fronteira, na região amazônica, faz sentido também. Ninguém se torna escravo voluntariamente. Sendo uma pessoa branca ou mestiça que foi educada pela sociedade branca, foi educada no sentido de reconhecer o caráter negativo de qualquer modalidade de escravidão e subserviência. No entanto, são montados esquemas de aliciamento. O mais comum é o chamado adiantamento, o abono, em que as pessoas que vão ser aliciadas são convidadas em povoados das regiões pobres do Brasil, especialmente no Nordeste, que é uma região historicamente pobre, são convidadas a se integrarem em grupos que vão trabalhar na região amazônica para derrubar a mata. E vão ganhar uma fortuna, dizem lá quanto vão ganhar, todas as vantagens que vão ter, etc. Organizada a viagem, de caminhão, geralmente, essas pessoas são levadas, são dias e dias de viagem. Tudo que elas comerem, tudo que elas beberem, tudo que elas usarem, sabonete, gilete, a lâmina para barbear, tudo tem preço e tudo entra na conta de cada um. Esse é o abono. E, com isso, quando a pessoa chega ao destino, descobre que o que ela vai ganhar é muito menos do que ela já gastou. Isso é o que intitula o traficante de mão de obra a se apossar da pessoa. E essa pessoa permanece ali escravizada. A parte da minha pesquisa sobre escravidão registrou fatos que eu, pessoalmente, não acreditava que ainda era possível que existissem. Numa das fazendas do Mato Grosso, alguns peões, alguns trabalhadores escravos, conseguiram fugir pela mata e foram caçados pelos jagunços da fazenda, pistoleiros da fazenda, levados de volta e, diante de todos, foram mortos, esquartejados e colocados no coxo como alimento dos porcos da fazenda. Isso para aterrorizar as pessoas. Quer dizer, o componente da escravidão, nesse caso, não é a escravidão puramente econômica, de apanhar para trabalhar. É uma escravidão embutida num sistema de terror, um sistema de destruição moral da outra pessoa. Em Rondônia mesmo, numa das fazendas, os trabalhadores tiveram o tendão do pé cortado para que não pudessem fugir. Eles já não podiam andar, eles tinham que ficar ao pé das árvores, cortando essas árvores. E são frequentemente vendidos depois. Eu fiz algumas entrevistas nessa fase, no norte do Mato Grosso, com prostitutas num povoado da região onde havia fluxo de peões controlados pelos jagunços, periodicamente, uma vez por mês, e que eram levados para o prostíbulo. Era um prêmio que eles recebiam. Conversando com as prostitutas, lembro de uma delas, que me falou da violência que eles sofriam, mas que ela também sofria, porque ela era escrava do dono do prostíbulo. E ela usou uma expressão maravilhosa: a puta e o peão pertencem à mesma classe social. É uma imensa expressão de consciência do que significa o trabalho escravo. O trabalho escravo não existe apenas no Brasil. Houve uma substancial redução no número de ocorrências em função de um programa adotado no governo de Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo, foi meu professor e é especialista em escravidão. E, quando presidente, ele criou o Grupo de Repressão ao Trabalho Forçado, que foi muito eficiente, curiosamente constituído por mulheres que andavam armadas e iam diretamente às regiões em que houve denúncia, e ali elas libertavam as pessoas. Houve uma substancial redução, porém se chegou a um número de 15 mil que não cai mais. Passaram-se os governos todos, mesmo que as pessoas sejam libertadas, novas pessoas são incorporadas ao processo do trabalho escravo. E aí acontece uma coisa terrível, é que frequentemente elas chegam para libertar os trabalhadores e abrir o processo contra o dono da fazenda. E há trabalhadores que fogem e se escondem porque não querem ser libertados. E o argumento é que, como eles aceitaram o dinheiro que lhes pagou a comida, lhes pagou a bebida, lhes pagou o transporte, eles são moralmente devedores ao dono da fazenda. E, para eles, é uma questão de honra continuar subjugados pelo fazendeiro e pelos seus pistoleiros. Portanto, o processo é muito complicado. O processo de afirmação da condição humana se defronta até com valores que são os valores da pessoa. Ela própria acaba sendo conivente com a violação dos seus direitos. Muitos índios, ou muitos poceiros, muitos camponeses, têm uma consciência bastante grande da dificuldade para aceitar a ajuda que vem de fora. Eu conheci um padre no Mato Grosso, o padre Manuel, já faleceu, era um missionário espanhol que foi para lá junto com Dom Pedro Casaldáliga, um célebre bispo que foi da mesma condição, e que fizeram ambos a chamada opção preferencial pelos pobres, e decidiram entrar. Eu conheci Dom Pedro lá no povoado dele, quando o povoado era uma coisinha pequena, um lugarejo, na beira do rio Araguaia. Eu já estava fazendo pesquisa na região. E um dia o padre Manuel, no pequeno povoado em que ele vivia, num rancho muito pobre, conversando com as pessoas, ele disse: olha, eu saí da minha terra para vir viver com vocês, como vocês, solidário com vocês. Nós somos iguais, nós estamos sujeitos ao mesmo processo, à mesma pobreza, à mesma miséria. Um dos camponeses disse para ele: padre, não. Você está nos arremedando, você está nos imitando. Não, mas eu abandonei tudo, abandonei minha família, a riqueza da família, abandonei tudo para viver com vocês. Não, nós não somos iguais. Porque se a violência aumentar aqui, você pega o primeiro avião e volta para a sua terra. E nós não temos para onde ir. O desigual é aquele que não tem para onde ir. Há algumas consequências interessantes. Um dia, num povoado também no Mato Grosso, Cascalheira, eu estava na casa do padre Clélio, era um rancho. E ele estava fazendo o almoço, e nós estávamos conversando. Aí eu olhei para a porta da casa e vi um índio parado na porta. Eu falei: Clélio, você tem uma visita. Aí fui lá conversar com o índio, ele foi também. Parecia um índio, era um padre, não era um índio. Era o padre Tomás Lisboa, um jesuíta. O padre Tomás estava envolvido num grande projeto dos jesuítas no Brasil, que é chamado Operação Anchieta, que é de se antecipar à presença dos brancos e integrar as comunidades indígenas para defendê-las contra a violência que o branco comete. O padre Tomás estava envolvido num processo desse, em defesa dos índios Minqui. Os Minqui formavam a menor nação do mundo, 23 pessoas. Sobrevoando com uma avioneta a região em que a aldeia se situava, o padre Tomás viu que uma empresa estava abrindo uma estrada que ia passar exatamente sobre a aldeia. Ele organiza uma expedição, vai até a aldeia, era uma língua que ele falava, língua tupi, e ele se comunica com o cacique, o chefe da aldeia, e ele diz: olha, eu vim aqui porque eu quero ser um índio Minqui, como vocês. O chefe ficou todo contente, porque a nação inteira tinha 23 pessoas, mais uma é uns tantos por cento no aumento populacional. E o padre Tomás fica lá um tempo, vivendo, volta, avisa aos brancos: vão passar, nós vamos impedir, estamos denunciando ao governo para que tome providências, evite essa presença, etc. Um belo dia, o padre Tomás recebe na sua choça o cacique, que traz uma moça para ele, e diz: você quer ser Minqui? Para ser Minqui, você tem que ter filhos Minqui. Esta é a tua mulher. É claro que ele, que fez o voto de celibato, etc., ficou numa situação extremamente embaraçosa. Teve que consultar os superiores e finalmente entenderam que, em nome da chamada missão encarnada, ele tinha que assumir essa responsabilidade e deveria se casar com a moça, o que causou a ele enormes problemas de personalidade. Mas ele já estava transfigurado quando eu o conheci. Ele celebrou uma missa naquele povoado, e eu me lembro bem dele no altar, primeiro colocando uma enorme pena amarela de arara no nariz, depois colocando os brincos, depois se pintando de urucum, uma tinta vermelha. Ele foi se paramentando como índio, para enorme espanto dos brancos que estavam ali na missa. essas narrativas dão um quadro das dificuldades que há para quem vive no campo, ver e pensar a concretização de categorias tão abstratas e tão gerais e tão necessárias ao mesmo tempo quanto a de que todos os homens nascem iguais. Essas narrativas nos falam que todos os homens nascem iguais, mas nascem também diferentes, e propõem o problema que no corpo dos direitos humanos se reconheça o direito à diferença. Eles são diferentes, falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, têm concepções diferentes a respeito do outro. Dialogar com a diferença é que se torna o grande desafio de todos nós. Eu tenho a impressão que, frequentemente, nas grandes cidades brasileiras, quando se fala no índio, se pensa no índio de filme americano de faroeste. E, na verdade, não é. Se trata de uma humanidade vivendo a realidade de uma identidade humana muito específica que nos ensina muito, nos ensina que nós também somos, não os iguais, mas os diferentes. E, como diferentes, é que podemos dialogar com os outros em nome desse princípio básico emancipador, que é o princípio da igualdade gerada na concepção dos direitos humanos. Obrigado. Ci sono domande, osservazioni? Ma io vorrei fare un'osservazione su questo rapporto tra uguaglianza e differenza di cui ha appena parlato Susan Martins. Dobbiamo distinguere due significati diversi di uguaglianza e di differenza a secondo dell'uso che facciamo del nostro linguaggio. È chiaro che siamo tutti differenti l'uno dall'altro e ovviamente le differenze più radicali sono quelle tra gruppi culturali, etnici, molto differenti fra di loro. Al punto, come diceva Susan Martins, che alcune tribù non riconoscono l'identità umana ad altri esseri umani in quanto differenti. E in effetti sul piano teorico, per lungo tempo, questo riconoscimento della differenza e della disuguaglianza è stato alla base di un'antropologia della disuguaglianza che accomuna una quantità di grandi filosofi del passato, da Aristotele in poi, fino a Locke. Qual è stata la grande rivoluzione rappresentata dal principio di uguaglianza? È rappresentata dal fatto che il principio di uguaglianza è una norma, è una convenzione, è una regola, cioè non consiste in una tesi descrittiva, in questo senso vera o falsa, ma consiste in un valore, e cioè in una norma, in forza della quale si conviene, pensiamo al primo articolo della Dichiarazione dell'89, del 1789, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 6 agosto con la Rivoluzione francese del 1789, si conviene che si è uguali in quanto differenti, e cioè di attribuire uguale valore a tutte le differenze. In questo senso il principio di uguaglianza è un principio normativo che equivale al diritto alla propria differenza, che è la differenza di identità sessuale, la differenza di opinioni politiche, la differenza di religione, la differenza di opinioni politiche. Può sembrare paradossale, ma il principio di uguaglianza altro non è che un corollario dell'uguale valore associato alle differenze, in questo senso non contraddice la tesi che siamo tutti differenti, in quanto non è una descrizione, ma è una norma. Si conviene, pensiamo al valore che ha la persona da Kant in poi, a parte, non so, la tradizione cristiana, la tradizione religiosa. Persona, appunto, equivale all'assunzione dell'uguaglianza di tutte le differenti identità. L'uguale valore associato a tutte le differenti. In questo senso uguaglianza non si oppone a differenza, ma a disuguaglianza, che è un'altra cosa. Ciascuno di noi è differente, e anzi il diritto alla differenza è il diritto alla propria identità irripetibile. E questa è la condizione della convivenza pacifica, è la condizione anche del multiculturalismo. L'Europa è uscita dalle guerre di religione, dall'intolleranza delle differenze, nel momento stesso in cui ha riconosciuto l'uguale valore delle differenti identità. Per cui soltanto il riconoscimento dell'uguaglianza come norma, come convenzione, e quindi dell'uguaglianza nei diritti di libertà, a cominciare dalla libertà religiosa, dalla libertà di coscienza, rende possibile la convivenza delle differenti culture. Contrariamente a un luogo comune secondo cui i diritti fondamentali sarebbero un portato, sì, in parte sono anche un portato della cultura occidentale, anche se poi, come ha spiegato Amartya Sen, ci sono tradizioni anche più antiche in India, in Cina, in altre culture che hanno elaborato appunto teorie dell'uguaglianza, e tuttavia proprio questo principio dell'uguale valore delle differenze è la condizione per la garanzia delle differenze culturali. Intanto le differenze culturali sono protette, e quindi le differenze di religione, mentre il razzismo è la forma di intolleranza per le identità, naturalmente il razzismo nelle forme più diverse, delle identità altrui, no? Fino ai fondamentalismi, che anche la religione cattolica ha conosciuto quando mandava sul rogo gli eretici, quando appunto era intollerante nei confronti delle religioni diverse. La grande conquista è stata la concezione dell'uguaglianza come norma, come convenzione. Soltanto in questo modo possiamo convivere pacificamente. D'accordo. Volevo chiedere al signor Martins se secondo lei il movimento dei contadini senza terra in Brasile può comunque migliorare la situazione, oppure se verrà riassorbito per esempio dal governo e quindi non riuscirà a cambiare molto. Grazie. Ci sono diversi problemi con il movimento dei senza terra, perché in fatto loro non hanno capito, io ho lavorato con loro, ho aiutato a preparare i primi quadri, loro sono nati nella commissione pastorale della terra, ma loro non hanno capito che l'indipendenza, l'autonomia era essenziale per seguire avanti. Si hanno tornato un apparecchio politico del governo, del Partito dei Lavoratori. Il Partito dei Lavoratori lo ha fatto come opportunismo politico, ha cercato di mettere tutti quanti insieme nella macchina dello Stato. Allora questa opzione ha svuotato, a me mi sembra, il movimento. Loro sono molto divisi tra di loro, ci sono crisi, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo il governo, nel fine del governo Lula, era molto chiaro che il governo del PT aveva fatto un'opzione preferenziale per l'agronegozio. Lula ha detto chiaramente che l'agronegozio sono i latifondisti dell'economia di esportazione. Lula ha detto diverse volte chiaramente loro sono l'eroe della nazione. Allora i senza terra non sono più gli eroi del paese. Dilma Rousseff, secondo governo, tutto il governo organizzato attorno dell'agronegozio, agrobusiness. La ministra sembra più importante del governo, è la padrona dell'Associazione dei latifondisti. Insomma, il quadro è molto chiaro. I senza terra non hanno capito che in un certo momento nel governo Lula c'era bisogno di sbarcare, di lasciare la nave e essere critico rispetto al petismo e al governo. Questo è un problema molto serio, perché svuota un gruppo importante nell'espressione politica dei nuovi soggetti in Brasile. Loro stanno grazie. Una... grazie. A chi? Nessuno. Tranquilla. Io no. Domanda? Chi vuole fare una domanda alzi la mano. Così. Grazie. No, potete fare le domande che volete, eh. Non vi preoccupate che siano pertinenti. Anche con riferimento alla situazione che viviamo in Italia, come quello che vi pare, l'Europa, il mondo. Cosa gli stati internazionali, cioè cosa gli altri paesi possono contribuire a fare per risanare questo aspetto della società brasiliana? Grazie. Meglio non fare niente. No, meglio non fare niente. Mi sembra che i brasiliani devono trovare l'uscita. Io penso che c'è bisogno di sviluppare una coscienza critica rispetto a quello che succede nell'America Latina, invece di una coscienza di connivenza, di appoggio incondizionale, eccetera. Il dibattito è che è importante. Non... I brasiliani hanno, l'America Latina, condizioni di sviluppare un'azione critica rispetto a questi problemi. Dibattere, non ignorare. E questa è la questione. Nella Military Review, Chiarelli afferma che il governo locale a Baghdad è incapace di assicurare i servizi di base e perciò i fondamentalisti approfittano degli emarginati. Ma non c'è una differenza di carattere religioso tra lo sfruttamento dei popoli in America Latina e ad Oriente? Grazie. No, ma il riferimento è cos'è? All'ISIS, allo Stato Islamico. È una forma di terrorismo organizzato, naturalmente le cause sono molteplici, tra cui anche tutto questo disastro è stato anche provocato dalle nostre guerre. È un discorso molto complesso questo, però non capisco adesso il senso della domanda. Cioè, praticamente, gli emarginati, non c'è anche una, un fatto di il governo che si approfitta degli emarginati in America Latina anche per questioni religiose rispetto ad Oriente? Cioè, America Latina. Tutti i governi sfruttano gli emarginati, tutti i governi, dappertutto. Chiaro che nei paesi latinoamericani è più facile per diverse ragioni storiche. Il cambiamento politico negli ultimi 20 anni in Brasile, si aspettava che si formava una democrazia con la partecipazione popolare, la crescita del popolo come soggetto politico, eccetera, eccetera. Non è successo perché il potere corrompe sempre. Dipende di un insieme di fattori, di natura morale, natura politica, di organizzazione dello Stato, eccetera, per non succedere questo tipo di cosa. Nell'America Latina il popolo è sempre vittima di questo processo. Ma sulla religione c'è un momento interessante. Io stavo nel villaggio di San Felix do Araguaia, circa del fiume Araguaia, davanti all'isola do Bananal, che è un'isola dove vivono alcuni gruppi indigeni, tra i quali i Carajá. E un indio Carajá, un anziano, camminava per la strada, testa in giù. È facile identificare i Carajá perché loro hanno un circolo sotto gli occhi, come un falso occhio, e un bambino, chiaramente meticcio, ha cominciato a gridare con l'indio, a cercare di diminuirlo come persona. Io sono andato al bambino e ho detto, ma perché tu insulta l'indio, lui è gente come noi, lui è un umano come noi. Il bambino, come me? No, io sono cristiano, lui è un gentile, è un eco lontano del lavoro missionario del tempo della conquista, ancora oggi. Sono strutture fondamentali che rimangono lì. E anche la gente che dice siamo di sinistra, progressista, eccetera, eccetera, di frequenti agiscono in lo stesso modo. Concludere. Se non ci sono altre domande, benissimo. Ci vediamo la volta prossima. sempre la corrente. Non lo puoi spegnere?